Anche il muro non era il più adatto, forse è meglio che ti riposi. Allo, c'è posto per noi, c'è già carta, perché non esisto mai. Qualcuno ci vuole ingaggiare, spero sia non troppo esigente. Credo serva qualcuno in aiuto. Allo, è lavoro per noi. Siamo soli, questo non scordarlo mai. Chiederemo una mano veloce. Quest'idea già mi incastrando due falsi altipiani, otterrai quattro sponde attaccate. Servirà uno spazio da inventare. È un'uscita d'emergenza per poter scappare. Ricorda, il futuro è nelle tue mani. Vedi bene sfruttare ciò che c'è domani. Come vuoi, come sai. Thank you. è un invito al congresso e tu sai ciò che vuoi. Sono riuscita a spiegare ciò che c'è da fare, solo che ho poco tempo, perché sarò al tuo fianco. Sei tranquilla e sicura, non mi fa paura, uscirà il nostro orgoglio, tutto quello che c'è dentro si aprirà. Una strada sta importante, ci cammineremo noi e sarà la nostra alma vincente, convincere la gente. Convincere la gente, convincere la gente, convincere la gente.